E ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Gianluca, altra puntata con ospiti in studio, stasera con noi i membri di una storica band nonché vecchia conoscenza che è ritornata in pista e che ci viene a presentare il suo nuovo disco. Voi le presentazioni. Ciao, siamo Viaggio Segreto, io sono Luca. E io sono Massimo, lui suona la chitarra, io invece canto. E lui canta, bene, canta bene, fortunatamente. E siamo tornati con un nuovo disco. Ed allora con il Viaggio Segreto, una prima e seconda parte in cui ascolteremo alcuni dei pilastri del rock inglese degli anni Ottanta. Come prima canzone abbiamo ascoltato The Headmaster Ritual degli Smiths dal disco Meet His Murder del 1985. Band che non manca ancora oggi di influenzare tutto il rock inglese, e che ne dite? Beh, guarda, posso prendere la parola io, Massimo? Ah, prendi la parola. Perché prendi sugli la parola. Smiths penso di essere un po' più ferrato di te. Esatto. Stai attento a cosa ti dico adesso. No, beh, gli Smiths, beh, la canzone che abbiamo sentito era assolutamente fantastica. Non era una delle mie preferite, ma non ti dirò qual è la mia preferita, perché voglio riservarmela per le mie fans. E quindi me la tengo per me. No, però bellissima. Poi io ho seguito gli Smiths anche dopo lo scioglimento e anche Morrissey. Morrissey, esatto. Un paio di dischi suoi molto belli. Ne ha fatto anche uno recentemente, mi sembra. Forse l'anno scorso. Un paio di anni fa, sì. Molto carino, tra l'altro. Consigliato. Il Viaggio Segreto ha una storia molto lunga alle spalle, iniziata negli anni 90 e che ora riparte dopo un periodo di stop. Qual è la scintilla che vi ha fatti ritornare insieme, anche se al momento in formazione ridotta a due elementi? Ma la scintilla è stata, in realtà non si è mai spenta del tutto, nel senso che io e Luca abbiamo sempre continuato a suonare, siamo rimasti in due, abbiamo fatto anche altri progetti. Però insomma, a rimetterci insieme in questo senso con un nuovo album è stata una nuova canzone che Luca ha scritto, come al solito direi, dopo qualche anno. E allora ha detto, ho scritto una canzone nuova, me l'ha suonata, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo immaginata, arrangiata e suonata al completo con la band rock, con la batteria, col basso, con tutto quello che ci voleva, e da lì siamo partiti, insomma, abbiamo iniziato a incidere, subito abbiamo deciso di incidere, insieme a quella abbiamo inciso altre due canzoni e da lì il passo poi è stato è stato breve, ci siamo ritrovati subito, insomma. Ancora musica e passiamo ai Police, il trio di Sting, Andy Summers e Stuart Copeland. Incide nel 1979 il secondo disco dal titolo Regatta the Blank e contiene il brano Walking on the Moon. Va riconosciuto ai Police di aver creato un sound unico che, in un'era in cui si ispira a tantissimi modelli del passato, non è mai stato ripetuto da nessuna band contemporanea. Che ne pensate? Guarda, hai proprio messo il dito nella piaga, perché noi siamo dei grandissimi fan dei Police. Non è stata scelta a caso. No, ma infatti sì, l'ho capito, anche perché noi ci siamo portati dietro in tutti questi anni, li abbiamo omaggiati in più modi, sia il nostro primo disco, ma anche quest'ultimo disco. Ci sono un paio di brani dove proprio ci sono degli omaggi proprio espliciti alla musica dei Police, sia nei arrangiamenti che nel cantato, ma anche nei testi, anche per Sting. E quindi poi hai messo una canzone alla quale siamo particolarmente affezionati, Walking on the Moon, quelle che abbiamo proprio nel DNA ormai. Vostre esibizioni dopo il rientro. So che al momento vi siete cimentati in set acustici e vi chiedo come sono andati e come il pubblico ha reagito al vostro rientro sulle scene musicali. Ma guarda, il set acustico è stata una novità per noi dopo che ci eravamo un attimo fermati con la formazione in band, e dopo un paio d'anni siamo rimessi, anzi da lì è ripartita un po' la nostra voglia di suonare. Ti dirò che abbiamo riscoperto il gusto di suonare le canzoni che piacciono a noi, che piacevano, che piacciono a noi, nel modo in cui piace suonarle a noi, senza dover fare per forza le cover che vanno per la maggiore, senza dover fare i tributi, appunto, e queste cose qua. Quella dimensione lì ci ha dato questa possibilità, quindi di suonare in due, in una dimensione nuova. E direi che il riscontro è stato molto positivo. Abbiamo inciso anche un album di un set acustico con quello che era un po' il nostro repertorio un paio d'anni fa, e ti dirò che ha riscosso anche un discreto successo. Ai concerti ne abbiamo venduti parecchi, anche la critica è stata molto positiva, quindi quando possiamo in due suoniamo sempre volentieri. Concludiamo questa prima parte con gli U2, che nel 1983 escono con il loro terzo disco War, ancora oggi uno dei loro manifesti degli anni 80, alla pari di altri loro capolavori. Da quel disco la canzone Two Hearts Beat As One. Noi torniamo dopo la pubblicità con il Viaggio Segreto.